Perfetto Giorno. Le notizie in 60 minuti. Di Simone Spezia. Torna a parlare il procuratore di Catania, ONG forse finanziate dai trafficanti di uomini e forse vogliono destabilizzare l'economia italiana. Il ministro Orlando dice parli con gli atti. Il disastro dell'hotel Rigopiano di gennaio, ci sono i primi indagati tra amministratori pubblici e funzionari, tra loro il presidente della provincia di Pescara. Gasdotto TAP, blitz nella notte con le ruspe, abbattute le barricate costruite dagli attivisti a Melendugno, rimossi gli ultimi ulivi. Oggi l'assemblea di Alitalia che darà il via al commissariamento, Lufthansa tra le ipotesi, mentre FS smentisce qualsiasi interesse. Altra giornata di guerriglia di strada in Venezuela e due vittime nelle proteste, Caracas esce dall'organizzazione degli Stati Americani. Una buona giornata da Simone Spezia, bentornati a Effetto Giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. 349-238-6666 è il numero per i vostri sms e per i messaggi su WhatsApp, ci potete anche vedere in diretta, la nostra diretta video sulla pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno oppure sulla pagina Facebook di Radio 24 e commentare se volete anche là. In apertura dunque occupiamoci di immigrazione perché torna a parlare il procuratore di Catania e torna ad accusare le organizzazioni non governative che fanno i salvataggi nel Mediterraneo. Alcune ONG che potrebbero essere finanziate dai trafficanti, un traffico che sta fruttando quanto quello della droga, con l'obiettivo, forse, di destabilizzare l'economia. È tutto pieno di forse, probabilmente, condizionali, il discorso del procuratore di Catania Carmelo Zuccaro, che già aveva parlato delle presunte collusioni tra operatori umanitari e trafficanti libici, sui quali la procura ha aperto un'inchiesta conoscitiva. Per ora nessun indagato è capo d'accusa. Ora il procuratore ha adombrato nuovi, ancora più inquietanti sospetti. Lo ha fatto ai microfoni di Agorà su Rai 3. A mio avviso le ONG potrebbero essere finanziate, alcune ONG, ripeto, tenuto distinto, dai trafficanti. So di contatti. Un traffico che oggi sta fruttando quanto il traffico della droga. Zuccaro ha anche detto che l'obiettivo delle ONG è forse quello di destabilizzare l'economia. Spero che la procura di Catania, ha detto il ministro della giustizia Orlando, parli attraverso le indagini, gli atti, perché questo è il modo migliore. Valentina Furlanetto, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E di questo torneremo a parlare più avanti, lo faremo proprio con un rappresentante di queste organizzazioni non governative per capire che cosa risponde alle dichiarazioni del procuratore di Catania, appunto. Siamo ai sei indagati per il disastro del Rigopiano. Sarebbero sei gli indagati dalla procura di Pescara per quanto accaduto il 18 gennaio scorso all'hotel Rigopiano di Farindola in Abruzzo. I magistrati hanno disposto la notifica dell'iscrizione nel registro degli indagati secondo le indiscrezioni per amministratori e funzionari pubblici che proprio in queste ore verrebbero raggiunti dalle comunicazioni partite dal Palazzo di Giustizia. Furono 29 le vittime della valanga che aveva spazzato via quasi del tutto l'hotel rimasto isolato per le forti nevicate. I soccorsi riuscirono a salvare 11 vite. Proprio i familiari di chi non ce l'aveva fatta, riuniti nel comitato vittime di Rigopiano, nei giorni scorsi avevano organizzato un flash mob nel centro di Pescara in occasione dei 3 mesi dalla sciagura. Hanno portato il loro dolore e i ricordi, chiedendo che la giustizia faccia il suo corso per stabilire e chiarire ogni responsabilità. Daniele Morini, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Oggi il Consiglio d'amministrazione, l'assemblea di Alitalia e quindi l'avvio del commissariamento. Dopo il no alla nazionalizzazione di Alitalia, ribadita dal Presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, dal governo arriva anche lo stop all'ipotesi di vendere a pezzi la compagnia aerea. Alitalia riassume il Ministro dei Trasporti Graziano Del Rio dopo un vertice ieri sera a Palazzo Chigi, ha le caratteristiche e le potenzialità per essere venduta in blocco e per trovare un nuovo progetto industriale. Lufthansa intanto smentisce un interesse per la nostra compagnia aerea. Abbiamo una chiara intenzione di non acquistare Alitalia, dice il direttore finanziario della compagnia tedesca Ulrich Svensson, e anche FS prende le distanze da ipotesi di coinvolgimento nel salvataggio Alitalia. Il management della compagnia è al lavoro da oggi per preparare l'assemblea dei soci del 2 maggio che dovrà dire sì o no alla richiesta di avvio del commissariamento di Alitalia decisa dal consiglio di amministrazione il 25 aprile. Una scelta, quella del CDA, fatta il giorno dopo il secco no dei lavoratori al preaccordo tra azienda e sindacati su piano e ricapitalizzazione da 2 miliardi. Secondo il presidente di di Confindustria Vincenzo Boccia, i sindacati hanno sbagliato, il referendum è stato un grande errore. Ora, dice, per Alitalia servono soluzioni di mercato. I sindacati, dal canto loro, difendono la scelta e il segretario della CGIL, Susanna Camusso, propone di coinvolgere Cassa Depositi e Prestiti per trovare soci europei. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Molti soldi spesi in questi anni per l'ex compagnia di bandiera, una parte andata proprio al personale e anche per gli ammortizzatori sociali. L'iter per il commissariamento di Alitalia è cominciato, ma tra le anomalie del settore vengono a galla i privilegi per i cassa integrati del trasporto aereo. È possibile, infatti, che gli ammortizzatori sociali che si troveranno davanti ai dipendenti garantiranno un paracadute più comodo rispetto a quelli disponibili e ordinari per gli altri lavoratori. Privilegi a cominciare dalla durata, 7 anni contro i 2 degli altri e l'80% dello stipendio contro il tetto di 1.168 euro per la CIGS di aziende tradizionali. 10 volte di più. Così spiega questi privilegi Francesco Staccioli dell'USB. Ma noi abbiamo sempre considerato semplicemente scandaloso, perché ha garantito attraverso un fondo privatistico, quindi non stiamo parlando di soldi dello Stato, ma di soldi che provengono da un'imposta sui biglietti aerei, per finanziare i piani di licenziamenti dei privati che hanno comprato all'Italia, dell'Etihad che ci è arrivata dopo, così come di tutti i fallimenti delle compagnie aeree. Se invece di privatizzare noi finanziavamo con i stessi soldi, ci compravamo Air France. Non solo, la media delle pensioni intorno ai 45.000 euro è garantita dal fondo volo, che secondo l'INPS è in rosso e nel 2043 avrà un buco di 6 miliardi. È un dato che non è vero. Anna Marino, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Siamo alle vicende del TAP, il gasdotto che deve approdare in Puglia. Questa notte blitz per rimuovere gli ultimi ulivi. Blitz della polizia al cantiere del gasdotto TAP a Melendugno nel Salento è stato effettuato la scorsa notte facendo arrivare le ruspe per togliere le barricate innalzate lungo le strade che portano all'area dei lavori. L'intervento di forza si è reso necessario per consentire agli operai incaricati da TAP di mettere in sicurezza gli ultimi 11 ulivi che, espiantati nei giorni scorsi, erano rimasti zollati, cioè con un pezzo di terreno attaccato alle radici e non messi in sicurezza. Uno stato di precarietà che, se prolungato, avrebbe danneggiato gli altri. Oltretutto, la soluzione di sistemare gli ultimi gli alberi era stata anche concordata in due vertici a Lecce, proprio per salvaguardare gli ulivi, solo che il presidio attorno all'area del cantiere lo impediva. La messa in sicurezza è durata poche ore. Gli alberi sono stati sistemati in dei grandi vasi in un'altra area e non trasferiti, come la maggior parte degli ulivi invece, nel sito provvisorio di Masseria del Capitano. Per tutti gli alberi espiantati si tratta comunque di un espianto temporaneo. Gli ulivi torneranno al loro posto quando termineranno i lavori di costruzione del microtunnel del gasdotto, per il quale ora comincia una fase decisiva a partire dalla decisione del Ministero dell'Ambiente se l'opera deve essere sottoposta o meno ad una valutazione ambientale specifica. Domenico Palmiotti, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Melendugno, Lecce. Ci spostiamo in Venezuela, ancora vittime nelle proteste contro Maduro. Altri 2 ragazzi di 20 anni sono morti negli scontri a Caracas, in Venezuela, dove da 3 settimane la gente è in piazza per protestare contro il presidente Maduro. In totale, dall'inizio degli scontri, i morti sono 27. Nella capitale l'opposizione oggi aveva convocato una nuova marcia, ma si è vista impedire il passaggio per la 6ª volta consecutiva da unità antisommossa della polizia e della Guardia Nazionale. Questa è l'ultima cronaca da un paese ormai fiaccato da una grave crisi che dura da anni, crisi politica, economica e sociale, e che coinvolge non più solo la classe media come avveniva anni fa, ma anche gli abitanti dei quartieri più poveri e delle baraccopoli, storicamente solidali con la rivoluzione socialista dell'ex presidente Chavez e con il governo di Maduro, elementi che rischiano di essere pericolosi per il governo. A confermare l'isolamento di Maduro, la scelta comunicata dalla ministra degli esteri Rodriguez, che ha annunciato oggi il ritiro dall'Organizzazione degli Stati Americani dopo la convocazione di un vertice dell'organismo regionale per discutere un progetto di risoluzione e per trattare la crisi in Venezuela, un atto considerato dal governo di Maduro intrusivo contro la sovranità venezuelana. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Italia ci sono al centro della scena la legge elettorale e ovviamente il dibattito che c'è stato ieri tra i tre candidati alle primarie del Partito Democratico, un dibattito che comunque non ha scaldato, gli ascolti sono stati intorno al 4%, però appunto resta sullo sfondo il tema della legge elettorale. Facciamo il punto di oggi con Elisabetta Fiorito. Elisabetta, buongiorno. Sì, buongiorno. Dopo il monito del capo dello Stato Sergio Mattarella arriva quello dell'ex Giorgio Napolitano che plaude al Presidente della Repubblica. La situazione istituzionale presenta una serie di incognite che richiedono una nuova definizione del sistema elettorale. Qual è il rischio, Simone? L'ingovernabilità post-elettorale, perché non c'è accordo tra le forze politiche su come cambiare il sistema di voto. Per il Movimento 5 Stelle si può andare al voto approvando il legalicum corretto dal Parlamento per armonizzare i sistemi di Camera e Senato. Diviso il PD, Andrea Orlando guarda ad un sistema che possa prevedere alleanze prima del voto con il centro-sinistra e avverte se Matteo Renzi dovesse fare alleanze con Silvio Berlusconi all'indomani delle elezioni, allora bisognerebbe fare un referendum all'interno del partito. Matteo Renzi invece vuole il maggioritario, si rende conto di essere una minoranza ma dice servono collegi e rapporti tra parlamentari e territori, altrimenti si cambia troppe volte casacca. Ribadisce però nessuna alleanza con chi è andato via dal PD. Forza Italia preme per il ritorno al proporzionale proprio per fare da ago della bilancia qualora il voto dovesse confermare lo stallo tra le tre forze politiche. A te, Simone. E grazie dunque ad Elisabetta Fiorito per questo aggiornamento. Andiamo negli Stati Uniti. Il presidente americano Donald Trump ha lanciato la sua strategia fiscale, propone una forte riduzione e semplificazione anche della tassazione sui redditi individuali, riducendo il numero delle fasce di reddito da 7 a 3, 10%, 25% e 35%, e raddoppiando le deduzioni fiscali, zero tasse sui primi $24,000 che una coppia guadagna, taglio anche delle imposte per le imprese. Torneremo a parlare di tutto questo tra poco in America 24. Quello di cui vi vogliamo parlare adesso invece è la strategia della concorrenza fiscale tra i vari paesi, nella quale Trump non è da solo. Se ne parla oggi sul Sole 24 Ore, il servizio. Donald Trump ha segnato la strada. Ora anche altri paesi potrebbero seguirlo. L'annuncio del presidente USA Donald Trump di abbattere drasticamente il prelievo sui redditi delle imprese portandolo al 15% e di ridurre anche sui cittadini il peso delle imposte diventa quasi un incentivo verso una corsa al ribasso mondiale delle aliquote. In realtà il Regno Unito ha già iniziato portando dal 20% al 19% l'aliquota ordinaria per i redditi di impresa dallo scorso 1 aprile. Ma non solo, perché anche il testa a testa per l'Eliseo che si consumerà tra 10 giorni tra Emmanuel Macron e Marine Le Pen ha posto al centro del dibattito la riduzione delle tasse. In Italia continua a discutersi sull'intervento sull'IRPEF, su cui anche le Camere hanno chiesto un impegno al governo nelle risoluzioni votate ieri sul DEF. Intanto la Commissione europea ha già approvato una prima proposta di base imponibile unica per tutte le imprese europee con ricavi almeno di 750 milioni. Giovanni Parente, Radio 24, il Sole 24 Ore. Parliamo adesso delle tensioni che continuano a restare, della tensione che continua a restare alta tra la Corea del Nord e gli Stati Uniti. Pyongyang ha fatto sapere oggi che non fermerà mai i test nucleari finché gli Stati Uniti continueranno i loro atti di aggressione. Un punto della situazione. Sanzioni economiche contro la Corea del Nord e i suoi programmi nucleare e balistico per ricondurre Pyongyang sulla strada del dialogo e non permetterla in ginocchio. È ciò che è emerso da due riunioni alla Casa Bianca con il capo del Pentagono Mattis e il segretario di Stato Tillerson, assieme ai 100 senatori del paese. L'amministrazione Trump vuole fare pressione sulla Corea del Nord per convincere il regime ad abbassare le tensioni e a riprendere il dialogo con la denuclearizzazione pacifica, ma allo stesso tempo si dice pronta a difendersi e a difendere gli alleati. Pyongyang, dal canto suo, attraverso le parole di Sok Chol, un alto responsabile del governo nordcoreano, dichiara che i test missilistici e nucleari non finiranno mai fino a quando gli Stati Uniti proseguiranno con quelli che il regime definisce ostili atti di aggressione. Contemporaneamente, però, e per la prima volta, Pyongyang si dice anche disponibile ad ospitare un esperto delle Nazioni Unite, autorizzando per la prossima settimana l'accesso di un relatore speciale sui diritti delle persone disabili, Catalina Devandas Aguilar, esperta indipendente designata dal Consiglio ONU dei diritti umani. Adriana Fracchia, Radio 24, il Sole 24 Ore. Adesso ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade e poi iniziamo il nostro consueto giro per l'Italia. Siamo in onda, ve lo ricordo ancora, tanto su Radio 24 naturalmente, quanto in diretta video sulla nostra pagina Facebook e su quella appunto di Radio 24. Inizieremo però proprio dalle ONG, che oggi hanno ricevuto un'altra accusa dal procuratore di Catania, il quale dice forse potrebbero essere finanziate dai trafficanti di uomini e forse vogliono destabilizzare l'economia italiana. Queste le parole del procuratore, parleremo proprio con un rappresentante di queste ONG. Ci occuperemo anche di Melendugno, del TAP e poi parleremo di vaccini. A tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto a metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia. Nella prima parte della trasmissione ci siamo occupati di quello che ha detto il procuratore di Catania, ne torneremo a parlare tra poco. Ha detto che le ONG sono forse finanziate dai trafficanti di uomini. Abbiamo parlato del disastro dell'hotel Rigopiano perché ci sono i primi indagati, tra cui il presidente della provincia di Pescara, del gasdotto TAP, e anche su questo torneremo tra un attimo, dell'assemblea di Alitalia e di quello che sta succedendo in Venezuela, dove ci sono state altre due vittime nelle proteste contro il presidente Maduro. Iniziamo dunque da questo tema che sta attizzando le polemiche anche politiche da qualche giorno, dopo le parole del vicepresidente della Camera Di Maio, che ha accusato le ONG, anche quelle che effettuano i salvataggi nel Mediterraneo, anche sulla base delle inchieste, o meglio delle indagini conoscitive aperte tanto dalla procura di Catania quanto dalla procura di Palermo. Oggi il procuratore capo di Catania, Carmelo Zuccaro, ai microfoni di Agorà su Rai 3, interviene con queste parole che vi voglio leggere. A mio avviso, dice il procuratore, alcune ONG potrebbero essere finanziate dai trafficanti e so di contatti, un traffico che oggi sta fruttando quanto quello della droga. Aggiunge il procuratore, forse la cosa potrebbe essere ancora più inquietante, si perseguono da parte di alcune ONG finalità diverse. Destabilizzare l'economia italiana per trarne dei vantaggi. Saluto Riccardo Gatti, che è direttore operativo di Proactiva Open Arms, che è appunto un'organizzazione non governativa nata in Spagna che opera nel Mediterraneo. Gatti, buongiorno, benvenuto ai nostri microfoni. Che cosa dice di queste parole del procuratore? Ma rimango sempre sorpreso dalle parole del procuratore, che fondamentalmente io mi aspetto che faccia il suo lavoro a livello di magistratura. Le parole che seguono questa campagna di scredito rispetto alle ONG, non riesco a capire come possa continuare a dire che probabilmente noi abbiamo dei profitti dal traffico di persone, e poi ancora di più che dica che il nostro obiettivo è destabilizzare l'Italia, no? Perciò rimango sorpreso, amareggiato, e sinceramente chiederei che determinate dichiarazioni vengano fatte in sede giudiziaria, non a una radio, perché sono comunque degli attacchi e delle accuse molto molto gravi, no? Sì, un'ascoltatrice Paola dice: quando parlate di ONG dovreste sempre specificare a quali vi riferite. Cara Paola, se non lo specifica il procuratore, come possiamo specificarlo noi? Parla genericamente di ONG, si riferisce in particolare a quelle più piccole, come la vostra, Gatti, nel senso, lui ha detto sempre: ma non sto parlando per esempio di Medici Senza Frontiere, ma sto parlando di ONG più piccole, tipo come MOAS, che abbiamo ospitato, SOS Mediterranea, anche loro sono stati ospitati a questi microfoni, e immagino si riferisca anche a voi. Immaginiamo però, perché il procuratore i nomi non li fa, no? Sì, il problema è quello che il procuratore non fa nomi, però continua giornalmente, ogni giorno, a fare delle dichiarazioni che a nostro avviso sono dannose, e non capiamo le intenzioni. Superficialmente potrei dire che vabbè, a lui l'obiettivo di fare del male alle ONG dicendo tutto quello che sta dicendo, quando fondamentalmente è aperta un'investigazione conoscitiva, perciò nessuno è indagato e di cui ancora non si sa nessun risultato, no? Però sembra che ogni giorno sta portando avanti quello che forse crede magari, o rimane sempre sul vago, però sono comunque accuse molto gravi. Senta Gatti, molti ascoltatori ci scrivono a questo punto perché voi diate la massima trasparenza possibile a quelli che sono i vostri finanziamenti, i vostri finanziatori, esattamente per questo motivo. Cioè dicono, a fronte di questi sospetti, no, è necessario che queste organizzazioni non governative dichiarino da chi arrivano i soldi. Ci può dare un'idea dei vostri bilanci e da dove arrivano i soldi? Sì, guarda, il bilancio del 2016 è stato di 2.200.000 euro, donazioni che provengono nel 97% da donazioni private, no? Perciò private vuol dire dalla mia vicina di casa, dai miei genitori, ma anche da privati che sono persone famose, no? C'è per esempio Guardiola, c'è Joan Manuel Serrat, che è un cantante spagnolo molto famoso, ed altri personaggi che logicamente le loro apportazioni a livello monetario sono molto più elevate della mia vicina o dei miei genitori. Certamente. 97... Quanti donatori sono in tutto? Quanti sono stati l'anno scorso? Mi sembra 36.000 donatori, credo. Okay. Sinceramente dovrei consultare questo dato. So che sono state 2.200.000 2.200.000 euro, e sono state spese direttamente per le operazioni 1.700.000 euro, le altre sono state investite per i lavori sulle nuove navi che abbiamo, no? Perciò il 97% di tutte queste donazioni, dicevo, sono di persone private, e poi il restante sono provenienti da diversi premi che abbiamo ricevuto, no? Il 5% di tutto viene speso per logistica e per comunicazione, il 95% è speso direttamente nelle spese di operative, no? Ascolti Gatti, l'altra domanda che fanno sempre gli ascoltatori è: perché i migranti, i profughi, le persone che salvate in mare vengono portate in Italia e non in altri porti? Vengono portate in Italia perché il diritto internazionale, le leggi del mare a livello di salvataggi in mare, dicono che le persone salvate in mare devono essere portate il più velocemente possibile al porto più vicino e più sicuro. Porto più vicino e più sicuro è l'Italia. Malta, anche se è un porto più vicino ed è sicuro, ha una capienza limitata, allora la loro capienza è già al limite. Tunisia, per esempio, il porto di Sfaxi, che era stato anche detto che dovremmo portarli lì perché è il porto più vicino, non è un porto sicuro. Infatti nel sito della Farnesina è sconsigliato agli stessi italiani viaggiare in Tunisia per motivi di sicurezza, no? Vengono portati in Italia appunto perché si seguono le leggi internazionali. E questo è l'indicazione. Tra l'altro, io nel frattempo sono andato sul vostro sito, è per questo che ero un attimo distratto, per vedere, perché qualche dettaglio sui bilanci c'è, e sono due, come ci diceva lei, 2.200.000 euro, e le donazioni sono arrivate da 16.500 persone, il che fa una media di circa 120 euro a testa, insomma, ecco, più o meno la cifra è questa. Va bene, questa è la vostra risposta, dunque io la ringrazio, grazie a Riccardo Gatti, direttore operativo di Proactiva Open Arms. Mi scusi Gatti, un'ultima domanda: non è possibile rendere proprio pubblica la lista dei donatori, giusto per sciogliere, perché capisce che di fronte a questi dubbi forse sciogliere fino in fondo la questione potrebbe essere un buon elemento, no? Guarda, adesso proprio ho una riunione col direttore e il coordinatore, glielo propongo. Non so se a livello di legge siamo di protezione della privacy potremmo farlo, però lo propongo, per noi non ci sarebbe nessun problema. Siamo completamente trasparenti sia a livello operativo, sia a livello organizzativo, sia a livello appunto monetario, perciò se la legge ce lo permette non credo che ci sia nessun problema, io lo propongo. La ringrazio, grazie a Riccardo Gatti, direttore operativo di Proactiva Open Arms, per essere stato con noi. Marco Poti, sindaco di Melendugno, ci spostiamo in Puglia, buongiorno sindaco. Buongiorno a voi e a tutti i radioascoltatori. Allora, finalmente è finito questo espianto degli ulivi, sono stati sposati anche gli ultimi 11, sono arrivati di notte, hanno rimosso le barricate con le ruspe, no? No, attenzione, non diamo una notizia esagerata. È arrivato un battaglione di uomini delle forze dell'ordine, sembrava lo sbarco in Normandia, un po' come immagine. Peggio di la peggior partita di calcio, la più rischiosa tra tifoseria avverse. Okay. C'erano una media di 50-70 uomini per ogni albero da schiantare. Questi sono i numeri di questa azione. Quanti ha detto? Ma 50-60 uomini, okay, per ogni albero. Erano 11 alberi, faccio poi. Che fanno 660 uomini per espiantare 11 ulivi. Camionette, vigili del fuoco, ambulanze, carabinieri, polizia, guardia di finanza. Non so se c'era anche la guardia costiera. Io quello che voglio dire, non so i costi per sostenere queste operazioni di polizia, chi poi li paga, e la sproporzionalità di queste operazioni rispetto a attività che sono preparatorie dell'area di cantiere di quello che sarà un tunnel sotto la spiaggia e sotto la pineta di San Basilio. Questo avviene, ripeto, per 11 alberi. Io non immagino quando ci saranno fasi ancora più complicate e più impattanti, spero mai, e che è significativo del fatto che opere di questo tipo non si possono fare senza l'accettazione e il consenso del territorio che li deve ricevere. Questo è un fatto, diciamo, principale di questa di quest'opera, di questo tipo di opere, che non può lei sa anche come funziona questo paese, che se uno va a cercare il consenso per una grande opera non lo trova mai e alla fine l'opera non la fa mai e poi però il gas lo devi accendere per cucinare o per riscaldare casa, capito? Ma quindi perché non studiamo i consumi del gas, quanto approvvigionamento già oggi che abbiamo, le infrastrutture costruite e ferme perché non c'è domanda di gas? Perché ci fermiamo alla superficie delle notizie? Parliamo tanto di Europa, dobbiamo essere europeisti, il gas serve all'Europa, è strategico per l'Europa, e non vediamo che succede negli stati europei dove l'opera o si fa col consenso oppure non si fa. E se bisogna interrogarsi se queste opere poi servono o servono soltanto alle società che le propongono. Non so se state leggendo le spesso giornalistiche che ci stanno facendo scoprire cose interessanti. L'opera per avere l'opera, l'accettazione avviene tramite, per così dire, una compensazione monetaria o di altro tipo o di altro... spesso avviene così. Voi sareste stati disposti ad accettare l'opera in cambio di una compensazione? Allora io vorrei, se è possibile, fare un ragionamento diciamo tranquillo e sereno. Noi studiamo il progetto da 5 anni, non abbiamo fatto le barricate, non siamo sindrome NIMBY, non fermiamo il progresso dell'Italia e dell'Europa per 11 ulivi, per 200 ulivi. Noi siamo delle persone, dei cittadini italiani che hanno studiato il progetto, hanno valutato gli aspetti positivi e gli aspetti negativi e abbiamo fatto una determinazione democratica nei consigli comunali, nei consigli regionali, nei consigli provinciali. Non si può tener conto di questi principi costituzionali. C'è stato un articolo della Costituzione che era stato modificato con la riforma Boschi-Renzi, che diceva che opere di tipo energetico siano di esclusiva competenza statale. Ebbene, i risultati del 4 dicembre sono chiari, abbiamo detto no a quella riforma e in questa zona non era il 59% di no, è stato il 75%. Forse è un dato democratico che bisogna tener conto. Allora, io sono stanco della superficialità e della diciamo acriticità con cui si considera un tubicino di gas, come ha fatto Renzi ieri. Non è un tubicino di gas, è un progetto complesso che se ne fa uno ogni 50 anni. Qualcun altro direbbe appunto. Chiudo con una domanda che ci arriva dagli ascoltatori. Alcuni ascoltatori dicono: questo che ha definito lo sbarco in Normandia o lo sbarco a Melendugno, mi faccia finire la domanda però. Dice: non sarebbe avvenuto con 60 uomini per ogni ulivo se voi non aveste protestato. E quindi lei dice quanto ci costa? Ci costa perché c'è la gente che protesta. No, se non ci fosse la gente che protesta. No, non giriamo le carte. Queste cose non ci sarebbero state se il progetto non fosse stato approvato in questa maniera, forzata, con i muscoli, con le leggi, con i decreti leggi fatti ad hoc, senza il consenso della regione, come previsto dalla Costituzione. Non giriamo la frittata, che gli alberi d'olivo muoiono perché qualcuno è contrario all'opera. Gli alberi d'olivo potrebbero morire perché hanno voluto fare un'opera che prevede 10.000 espianti di olivi, tra l'altro, non 200, e tantissimi altri impatti negativi, perché una società in Svizzera nel Azerbaijan di farlo qui, allora, invece che allora facciamo una cosa, guardi Poti, tanto i lavori sono iniziati, ormai l'approdo del TAP a Melendugno si farà e c'è poco da fare da questo punto di vista, quando saranno finiti i lavori andremo a vedere la spiaggia di San Foca, vedremo se c'è stata davvero questa devastazione ambientale che paventate e ne riparleremo e eventualmente insomma ne discuteremo. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sui mercati, poi ci ritroviamo e parliamo di vaccini. Perché? Perché ci sono delle dichiarazioni del presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna, tra l'altro l'Emilia Romagna, come sapete, è la prima regione ad aver approvato l'obbligo vaccinale per i bambini che accedono al nido. C'è il presidente dell'Ordine dei Medici che ha fatto delle dichiarazioni di Bologna che colpiscono. Dice che è importante e grave la decisione dei colleghi di Treviso di radiare un dottore Novax e dice che non si è arrivati a livelli di guardia per il cosiddetto effetto gregge della vaccinazione. C'è in questo tema uno scontro abbastanza energico con l'assessore alla sanità e con la regione stessa. Tra poco. Effetto giorno. Effetto giorno, le notizie in 60 minuti, il punto è metà giornata di Radio 24 su quello che succede in Italia e nel mondo. Al microfono sempre Simone Spezia, i nostri titoli. Il procuratore di Catania dice ONG forse finanziate dai trafficanti di uomini. Il ministro della giustizia Orlando replica, spero che la procura parli con gli atti. Il disastro dell'hotel Rigopiano di gennaio, ci sono i primi indagati tra amministratori pubblici e funzionari, tra loro il presidente della provincia di Pescara. Oggi l'assemblea di Alitalia che darà il via al commissariamento, Lufthansa tra le ipotesi, mentre FS smentisce qualsiasi interesse. Un'altra giornata di guerriglia in strada in Venezuela, 2 vittime nelle proteste, Caracas intanto esce dall'organizzazione degli Stati Americani. E poi il gasdotto TAP, c'è stato, come avete sentito, il blitz nella notte con le ruspe, abbattute le barricate costruite dagli attivisti a Melendugno e rimossi gli ultimi ulivi. La borsa. Fineco, la banca numero 1 in Europa nel trading, vi presenta Effetto Giorno. Ed eccoci di nuovo, sempre in diretta anche sulla nostra pagina Facebook www.facebook.com/effettogiorno oppure su quella di Radio 24. Solo un paio di risposte a qualche ascoltatore che ci ha scritto al 349-238-6666 via SMS, WhatsApp, o c'è anche scritto sulla pagina Facebook. Innanzitutto l'ascoltatore che ci dice che il sindaco di Melendugno è insopportabile e qua siamo stati troppo morbidi, sono stato troppo morbido nelle domande. Qua ve lo dico molto chiaramente, a volte c'è l'occasione e l'opportunità ed è anche giusto essere un po' più duri, a volte semplicemente decidiamo di dare spazio a quelle che sono opinioni diverse anche dalle nostre. Su quello che penso del TAP, beh, insomma, ve l'ho chiarito già ampiamente, ne abbiamo già parlato nelle settimane scorse. Io sono convinto che quell'opera vada fatta e se è stato identificato quel posto vada fatta là. Abbiamo deciso di dare spazio e di far sentire anche il sindaco di Melendugno, l'abbiamo fatto più di una volta e continueremo a farlo, ed è inutile in tutta franchezza incattivirsi, per così dire. Giancarlo Pizza, buongiorno e benvenuto. Buongiorno, grazie. Presidente dell'Ordine dei Medici di Bologna, ed è al centro di una polemica. È al centro di una polemica che riguarda ancora una volta, e guarda caso, i vaccini. Un tema che affrontiamo spesso e che torniamo ad affrontare anche oggi. Perché ci sono delle sue dichiarazioni, Pizza, che hanno fatto un po' innervosire soprattutto l'assessore alla sanità della regione Emilia Romagna. Ci sono varie dichiarazioni contro di lei e che riguardano il tema dell'obbligo vaccinale per i bambini che debbono accedere all'asilo nido. Lo ricordiamo, la regione Emilia-Romagna, spesso ne abbiamo parlato, è stata la prima regione ad approvare una norma in questo senso. Lei che cosa sostiene, Pizza? Ma intanto sgomberiamo il campo, che l'Ordine dei Medici di Bologna è assolutamente favorevole alle vaccinazioni, che, come dire, si è contrario a favorire la chirurgia, ecco, è favorevole alle vaccinazioni. Qui sotto gli occhi ho un pamphlet, i vaccini e le vaccinazioni, preparato da noi assieme alla Società Italiana di Farmacologia, Società Italiana di Igiene, di Pediatria, Federazione Italia Medici Medicina Generale, FIMP. Allora, chiariamolo, Pizza, lei non è un antivaccinista, questo è il, questo è il primo punto. Sgomberiamo il campo. Sì, sì, sì. No, chiarissimo. I miei figli sono vaccinati, hanno seguito il normale iter che è previsto per le vaccinazioni. Questo documento sui vaccini e vaccinazioni, fatto dalle società che le dicevo, è stato sottoscritto, approvato dall'Istituto Superiore di Sanità, è sottoscritto all'Ordine dei Medici Provinciali della provincia di Bologna. Okay. E coi documenti siamo a posto, diciamo così. Quindi vaccinare sì, ci mancherebbe altro. Le vaccinazioni sono un importante presidio, ha debellato una serie di malattie, ha ridotto enormemente l'incidenza di alcune altre. La prego, Pizza, l'abbiamo capito, lei non è un antivaccinista, ci è chiaro, no, del resto... Una delle cose che sono emerse da quel post Facebook dell'assessore, sembrava che Pizza fosse un antivaccinista. Lei non è d'accordo con l'obbligo, lei non è d'accordo con l'obbligo. Io sono perplesso, non ho detto che non sono d'accordo, io ho detto se lei va a sentire la mia dichiarazione su TG3 del 24 alle ore 14, ho detto che sono perplesso. Non è lo strumento che avrei utilizzato per spingere i genitori a portare i bambini a vaccinarsi. Perché? Dal punto di vista, perché? Perché lei mette sullo stesso piatto, su piatti diversi, due diritti costituzionali molto importanti. Uno che è quello alla istruzione e l'altro quello alla possibilità di negare qualsiasi intervento sanitario. Ce n'è uno soltanto obbligatorio per legge, il trattamento sanitario obbligatorio con l'internamento della persona impazzita. Ora, mettere sullo stesso piano questi discorsi, io capisco che c'è la necessità di proteggere la collettività, ma c'è anche la necessità però Pizza, di proteggere... Pizza, il nido mica è obbligatorio. Sì, ma lei si metta nei panni di chi, per esempio, non è in grado di pagarsi il nido e quindi si trova nella necessità di... far subire qualcosa e magari le ritiene perplesso al proprio figlio e mette in ambascia. Io dico che questa è una situazione che va affrontata con il dialogo, il convincimento, la chiarezza. È vero anche Pizza dall'altra parte che ci sono, ce lo fa notare qualche ascoltatore, ma è un tema che abbiamo affrontato anche questo spesso, ci sono dei bambini che non si possono vaccinare perché non possono proprio. Lo so bene. E il fatto che possano entrare a scuola, al nido, dei bambini non vaccinati li mette a forte rischio. Allora, chiariamo, è vero che ci sono i bambini che non possono essere vaccinati, ma io non ho detto che non si debbono vaccinare, che la gente non i bambini non debbono essere vaccinati. Si vaccinino tutti quei bambini che possono essere vaccinati e il discorso va fatto su quei genitori novax, cioè non sui genitori che si trovano in un altro tipo di condizione. Io utilizzo il metodo del dialogo, la chiarezza, perché purtroppo ci sono molte informazioni sbagliate sulle vaccinazioni, perché vengono raccolte sul web, dove ci sono quelle che vengono chiamate le fake news. Sì. E quindi bisogna che ci sia un dialogo con i genitori. Però Pizza, dall'altra parte, io le posso dire, io di mestiere faccio, mi occupo di informazione, no? Sì. E questo tema noi lo affrontiamo spesso, lo affrontiamo da un punto di vista scientifico, lo affrontiamo da un punto di vista pratico di quello che succede quotidianamente nelle vite, spieghiamo anche tante cose, come per esempio il fatto, e continuo a dirlo agli ascoltatori che ci scrivono, che siamo servi delle multinazionali, che le multinazionali della medicina guadagnerebbero molto di più a curare la gente che non si vaccina e che prende malattie gravi piuttosto che dai vaccini, e però io vedo l'impatto che ha tutto questo sul pubblico e l'impatto dell'informazione sul pubblico c'è in parte sì, ma spesso non c'è proprio, cioè ci sono alcune persone dalle quali questa cosa non passa proprio. Beh, guardi, il discorso è completamente diverso, perché se lei prende persone che sono pregiudizialmente contrarie a determinate soluzioni, non le incontra neanche con l'obbligo di legge, questi non fanno vaccinare il bambino, punto e basta, e quindi non ottiene granché. Per questo io dico che quello che è importante è il dialogo. D'altra parte, il piano nazionale delle vaccinazioni non prevede un obbligo così secco. Se un bambino va a scuola non vaccinato, viene segnalato, i genitori vengono contattati dall'ASL e si chiariscono le cose. Un obbligo di questo genere mi lascia perplesso. La regione faccia la sua legge, l'ha fatta, non so, il legislatore legiferi. Io faccio il presidente dell'Ordine e mi occupo della corretta applicazione delle norme e della corretta valutazione dei medici nella fattispecie. Quindi allora, oltre non vado, ha capito? Allora, Pizza, io la devo salutare perché dobbiamo veramente chiudere. Intanto la ringrazio, ha espresso la sua opinione. Ci fermiamo, andiamo a sentire cosa succede sulle strade. Mario Platero, ci risentiamo alla fine per i saluti.